Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto ad ottobre del 1805. La marina francese è travolta dagli inglesi a Trafalgar, ma muore l'ammiraglio Nelson. Tensione tra Napoleone e il gran cancelliere Melzi d'Erill, quest'ultimo aspira all'indipendenza italiana. Terremoto nel sud, si lavora per ricostruire in Molise, sospese le tasse. Nuova pubblicazione femminile a Milano, grande successo per il Corriere delle Dame. Una buona giornata da Paolo Piacenza e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Così come già si vide in Egitto, la marina inglese ha dimostrato la sua superiorità su quella franco-spagnola. L'audio che sentite è stato raccolto sul mare della battaglia che ha visto la nuova sconfitta di Parigi. A Capo Trafalgar, nel sud della Spagna, l'ammiraglio Orazio Nelson ha adottato una tattica rivoluzionaria. Al posto del classico schieramento delle navi in linea, ne ha scelto uno in due colonne per sfondare al centro e colpire le ammiraglie francesi. Finale di battaglia con 7.000 caduti tra morti e feriti per i franco-spagnoli, appena 450 tra i britannici. Tra loro lo stesso Nelson, che è riuscito, prima di morire, a sapere che la flotta inglese aveva vinto. Il piano di invasione del Regno Unito che l'imperatore aveva elaborato ha subito necessariamente uno stop, ma sul fronte tedesco le armate francesi avanzano. Il 24 settembre è iniziata l'offensiva francese verso la Foresta Nera e poco meno di un mese dopo, a Ulm, la Grande Armée ha colto un'importante vittoria. Questo è il quadro dal fronte di guerra, mentre in Italia Bonaparte registra, se non resistenze vere e proprie, almeno qualche distinguo all'interno dello stesso gruppo di vertice che si è scelto per il regno, in primis quella del cancelliere Melzi d'Erill. Qualcuno gli ha dato dell'illuso, ma i più sono concordi nel riconoscere in lui un sincero idealista. Un idealista pragmatico che ha tentato di fare dell'Italia una nazione unita e indipendente, ma è stato almeno finora sconfitto. Francesco Melzi d'Erill, il 52enne Patrizio Lombardo che fu scelto da Napoleone come vicepresidente della Repubblica Italiana, continua nella posizione più scomoda di cancelliere guardasigilli sottoposto al viceré Eugenio di Beauharnais a sostenere il progetto unitario, ma è sempre più isolato e meno ascoltato. Nel 1802, quando a Lione fu approvata la Costituzione, si poteva intuire che l'indipendenza italiana sarebbe stata solo formale, ma Melzi d'Erill, pur fedele a Napoleone, ha continuato a chiedere all'uomo più potente d'Europa di realizzare il sogno di un'Italia unita e libera. Bonaparte non lo ha mai soddisfatto, anche se lo tiene in grande stima. Secondo qualche bene informato, l'imperatore è convinto che gli italiani non siano ancora pronti e che Melzi d'Erill sia quantomeno in anticipo di una generazione. Enrico Pagliarini, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24, il Sole 24 Ore. Siamo al terribile terremoto che ha colpito il Sud Italia il 26 luglio di questo 1805. La situazione resta difficile con molte persone fuori dalle loro case. Il re Ferdinando IV ha ordinato la sospensione delle tasse per tutte le popolazioni maggiormente colpite, a partire dai molisani, mentre alle classi più agiate è stato dato ordine di provvedere a riparare gli edifici pericolanti, pena la confisca dei beni. Sta avendo grande successo una rivista femminile che si stampa da qualche mese a Milano, diretta da Carolina Arienti. Tra le sostenitrici della necessità di maggiore eguaglianza tra uomini e donne, il Corriere delle Dame si distingue non solo per i servizi di moda e di costume, ma anche per una rubrica di cronaca e commento intitolata Termometro Politico. È tutto per questa edizione curata da Simone Spezzi e Paolo Piacenza che l'ha condotta. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Potete anche visitare il nostro blog. Se poi volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.